Allora, questa è la festa principalmente della Via della Lana della Seta, che poi abbiamo esteso a tutti gli altri cammini fratelli della via, e vuole essere appunto il momento di festa appunto dedicato ai cammini di uno dei cammini più recenti, perché la Via della Lana della Seta nasce nel 2018, l'abbiamo inaugurata proprio a giugno del 2018 e da allora ogni anno, con esclusione solo di un anno durante il Covid, abbiamo sempre fatto questa festa, che è appunto a metà strada, perché la Via della Lana della Seta va da Bologna a Prato, Castiglione di Pepoli è la tappa intermedia. Da qualche anno la festa si sviluppa tra Castiglione e Montepiano, che è il paese di rimpettaio subito di là dal crinale, quindi in Toscana, e quindi sono due giorni e due paesi ad accogliere questa bella festa. Esatto, due giorni e due paesi che si animeranno con tantissimi eventi. Ti va di raccontarci alcuni degli eventi più imperdibili di questa edizione? Allora, sì, volentieri, facendo una premessa, una cornice. Allora, la festa si articola nei due paesi e principalmente a Castiglione in piazza succederanno cose, cioè avremo un mercato di prodotti tipici e le cucine della via, ovvero le cucine, i ristoratori, i circoli, le associazioni che propongono piatti tipici della tradizione tosco-emiliana, spesso rivisitati, e che durante la festa vengono appunto in piazza Castiglione in modalità street food. Castiglione accoglie la festa principalmente in piazza, ma dalla piazza partono anche camminate. Montepiano invece accoglie la festa nelle sue magnifiche ville e nei sentieri attorno al paese, sentieri molto freschi, ombreggiati da questi faggi meravigliosi, e quindi lì la festa è più distribuita. E un altro elemento fondamentale di questa festa sono i momenti musicali, perché oltre a mangiare, a camminare e ad avere dei bei laboratori per i bimbi, direi che uno degli aspetti fondamentali è proprio la musica che ci accompagna nelle passeggiate e anche nelle piazze. Per tutte quante le informazioni si può anche andare sul sito della Via della Lana e della Seta per cercare magari meglio orari, chi si esibirà, insomma, informazioni più specifiche. Nel frattempo, Egle, grazie mille per averci fatto una panoramica su questo bellissimo festival che celebra appunto il cammino della lana e della seta, e ci vediamo il 29 e 30 giugno. Benissimo, grazie, vi aspettiamo tutti. Grazie ancora, un saluto da Radio Fresh. Grazie.